al prossimo amore. Comincia la dieta, capelli di un altro colore e corpo d'atleta. Lo penso da tanto, ma non l'ho mai fatto. La prossima volta ad un uomo gli faccio un contratto. Ho fatto dei danni, ho perso del tempo. Poi passano gli anni, alla fine che cosa mi invento? Perché più libera sono e meno mi freno. L'idea di cambiare matura e poi credo che questo sia l'ultimo treno. Non voglio diventare quella che spalma gli uomini sul pane, neanche l'amico, la sorella, quella che porta fuori il cane. Non voglio essere un problema, ne ho avute troppe di promesse. Giuro a me stessa di cambiare, forse ci metterò più cuore. Dal prossimo amore, dal prossimo amore, dal prossimo amore. Dal prossimo amore mi cerco un marito. Magari comincio da un corso di taglio e cucito. Per una vita all'inglese, la più regolare. Le ferie che durano un mese fra sabbia e bambini e il marrone del mare. Voglio dei figli e dei nipoti per farli ridere e mangiare. In questo mondo di scienziati, credere a Dio e Babbo Natale. Sposata a un uomo per amore, per sempre un po' come il diamante. Voglio soltanto respirare, voglio una vita più importante. Dal prossimo amore, dal prossimo amore, io devo diventare un'altra, una presenza pungigliosa. Scelte per non aver sempre ragione. Io devo essere imperfetta come il ventricolo di un cuore malato e da operare in fretta. Io devo essere migliore. Dal prossimo amore, dal prossimo amore, dal prossimo amore. Al prossimo amore. Al prossimo amore.